Cose che non trovo ma che ritroverò, sulle porte che ho già chiuso ma per te riaprirò, negli accordi che non suono ma per te suonerò, nelle strade con te fatte che non faccio da un po'. Rifugi in cui posavo le certezze che ho, in quei sorrisi che indossavo e che non vedo da un po', nei momenti in cui chiedevo e tu dicevi di no, ho trovato un foglio bianco e tu puoi crederci o no, ma io ci ho scritto il tuo nome. Oh, io ci ho scritto il tuo nome. C'è scritto il tuo nome. Tra le volte in cui sbagliavo ed io sbagliavo, lo so che è sbagliando che ti ho perso e so che risbaglierò. Mi hai sempre detto non puoi avere mica tutto, però mi hanno dato il mondo in mano e tu puoi crederci o no, ma io c'ho scritto il tuo nome. Oh, io ci ho scritto il tuo nome. Io ci ho scritto il tuo nome.